9 in punto, la versione di Oscar. Cari ascoltatori, buongiorno. Oggi ci occupiamo di un caso che ci offre la possibilità di estendere poi l'attenzione, le pastoie, i vincoli burocratici, amministrativi che ancora si oppongono a un'economia più energica, più dinamica e che costituiscono un problema ovviamente per la vita quotidiana di qualunque impresa. E lo faremo partendo da un caso particolare, per cui vi chiedo di telefonare sulla scia di questo caso particolare per dirci quali sono ancora i problemi che incontrate, vessati dalla pubblica amministrazione, dalla burocrazia e dalle sue pastoie. Quindi 800240024, qual è il caso da cui partiamo? È una sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto il danno biologico a un imprenditore che si era ammalato per lo stress causato dai ritardi di un permesso a costruire, che costituisce, ammettiamolo, un bel precedente questa sentenza del Consiglio di Stato. Allora, ascoltate la vicenda come viene descritta dall'avvocato della parte che è riuscita a farsi riconoscere i diritti dal Consiglio di Stato per effetto di una legge, la legge 69 del 2009, quindi una legge recente che proceduralizza, per così dire, i nuovi diritti di danno patrimoniale o di danno biologico che sono inerenti ai ritardi e alle inerzie della pubblica amministrazione. Grazie a questa legge, sentite il caso come descritto dall'avvocato che è riuscito a farsi riconoscere il diritto del suo assistito dal Consiglio di Stato. Però iniziate poi a telefonare, perché poi avremo ospiti, protagonisti del lungo, di turno, dibattito che promette ogni volta semplificazioni, passi avanti. In effetti anche al Consiglio dei Ministri di ieri qualche passetto è stato compiuto, ma poi se andiamo a vedere il più resta sempre ancora drammaticamente da fare, delle semplificazioni radicali che uno auspicherebbe. Siamo in attesa, per esempio, nell'ambito della cosiddetta frustata all'economia, del disegno di legge delle semplificazioni Calderoli, che era stato promosso per 2 settimane fa, era stato promosso al Consiglio dei Ministri il 9 febbraio, ormai siamo quasi a un mese, e dal Consiglio dei Ministri non è uscito perché poi si è detto che sarebbe stato coordinato dai diversi ministri le cui competenze toccava e abbinato al disegno di legge concorrenza, quello di attuazione annuale delle misure per il mercato interno, che manca da 9 mesi addirittura. Restiamo in attesa. Ma innanzitutto sentiamo il caso da cui partiamo, cioè quello della sentenza del Consiglio di Stato. Abbiamo con noi l'avvocato Alfredo Passaro, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Ecco, avvocato, ci può spiegare in che cosa è consistito questo caso e perché rappresenta una novità? Dunque, di cosa si trattava precisamente? Si trattava di un permesso invariante, permesso di costruire invariante di un fabbricato sito in un comune, e ovviamente il mio cliente aveva chiesto questo permesso invariante legato ad un piccolo innalzamento della stessa struttura portante, e ovviamente aveva fatto tutte le procedure amministrative che erano state richieste dall'amministrazione, ivi compreso la richiesta ovviamente del parere della sovrintendenza, essendo poi in effetti questo piccolo fabbricato costruito all'interno di un centro cittadino, e quindi ovviamente c'era anche la necessità di ottenere il parere della sovrintendenza. Il fatto è che, ottenuto il parere della sovrintendenza, che era stato un parere favorevole, c'era stata una richiesta di un'ulteriore specificazione subito realizzata dal mio cliente. A questo punto si pensava, nel maggio del 2002, di ottenere sostanzialmente questo permesso. Da quella data è incominciata un po' una specie di odissea, cioè nel senso che ha cercato in tutti i modi di sapere per quale motivo comunque il titolo abilitativo non venisse concesso. Prima era stata detto che c'era stato un problema con la sovrintendenza in ordine al parere rilasciato. Poi non si capiva per quale motivo sostanzialmente l'amministrazione perdesse del tempo, tant'è vero che alla fin fine il cliente dovette rivolgersi a me per chiedere conto e ragione all'amministrazione. E a questo punto è chiaro che la nostra attività da questo punto di vista ci impone determinati tipi di procedure che ovviamente conosciamo, e quindi abbiamo fatto un'istanza d'accesso sui documenti amministrativi per capire qual era lo stato dell'arte. Abbiamo poi diffidato l'amministrazione a rilasciare il titolo abilitativo, perché non riscontravo alcun elemento che potesse bloccare il procedimento, e neanche questa mia richiesta ultimativa stragiudiziale trovava riscontro, e quindi sono stato costretto a iniziare un ricorso per silenzio inadempimento. Il ricorso per silenzio inadempimento è quando appunto l'amministrazione non dà una risposta o positiva o negativa a una richiesta del cittadino. Nel momento in cui io presento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente questa domanda, arriva l'abilitazione. Quindi ovviamente il procedimento davanti al tribunale decade per carenza di interesse in relazione al tipo di domanda che era stato effettuato, però il mio cliente ovviamente era stato in uno stato di prostrazione, era veramente, perché poi era un investimento, era un piccolo costruttore, un piccolo imprenditore, quindi aveva costruito questo palazzetto nel centro cittadino, era una cosa, insomma, un intervento per quanto gli riguardava abbastanza importante, aveva fatto anche degli investimenti e quant'altro. Ovviamente aveva fatto anche dei contratti preliminari, perché chiaramente, sa, come succede sempre, si acquistano gli immobili in corso di costruzione, quindi ci sono stati dei ritardi notevoli, perché è chiaro che non avendo il titolo abilitativo lui non poteva fare i rogiti, quindi sostanzialmente tutto era bloccato, e questo a un certo punto mi chiese di intentare l'azione di risarcimento del danno. Stiamo parlando ovviamente del 2004, quindi un periodo in cui effettivamente non c'era ancora, devo dire la verità, anche da un punto di vista di orientamento giurisprudenziale, una posizione favorevole in ordine alla possibilità del risarcimento del danno per lesione di un interesse legittimo. Insomma, non vorrei qui tediare, ci sono state una Cassazione a Sezioni Unite che poi ha veramente aperto il varco di fronte a questo determinato tipo di possibilità risarcitoria, però il mio cliente era così frustrato eccetera, che abbiamo pensato di avviare questo procedimento, e peraltro le devo dire ha avuto un primo stop davanti al giudice di primo grado, perché il giudice di primo grado non solo non aveva riconosciuto, e questa era la cosa che secondo me era estremamente grave, non aveva riconosciuto la colpa dell'amministrazione nella procedura stessa, ma anche ovviamente poi aveva affrontato in maniera molto meno rilevante, perché chiaramente non aveva accettato il primo punto, l'aspetto del risarcimento del danno. Quindi a quel punto c'era stato un primo blocco col cliente, abbiamo detto che facciamo, siccome ovviamente era passato un po' di tempo rispetto al 2004, la sentenza era intervenuta nel 2006, a questo punto la situazione anche giurisprudenziale si era modificata, e io ho detto proviamoci col Consiglio di Stato, perché io penso che alla fin fine un ristoro io penso che può ottenerlo, e quindi abbiamo chiaramente ripercorso anche il secondo grado. Nel momento in cui il Consiglio di Stato ha fatto un'ordinanza con la quale praticamente riconosceva la possibilità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, quindi un soggetto che potesse valutare il danno, a questo punto io mi sono reso conto che effettivamente stavamo ottenendo qualcosa di importante. E così è stato, insomma. Poi la sentenza, insomma, è abbastanza, è stata pubblicata ieri, ho visto, effettivamente riconosce sia le lungaggini che si sono verificate, e si sono verificati in maniera, devo dire, estremamente grave, perché si trattava di andare a richiedere chiarimenti in ordine a un parere favorevole rilasciato dalla sovrintendenza, e il Consiglio di Stato stigmatizza questo comportamento dicendo: ma tu non hai, comune, nessun potere di sindacare un parere che è di competenza specifica di un organo come quello della sovrintendenza, perché continui a chiedere peraltro in maniera assolutamente dilatoria. Oppure, per esempio, per un anno ha atteso un anno per sostituire il funzionario che avrebbe dovuto rilasciare il titolo abilitativo. Ovviamente anche in questo caso il Consiglio di Stato ha sostanzialmente detto: ma e questo è un problema di un'organizzazione della pubblica amministrazione, non è certamente da attribuire e quindi da addossare in termini di responsabilità. E comunque, grazie a tutto questo, con la costanza e con anni ovviamente di azione, siete riusciti a ottenere, sì, quanto più o meno 11.000 euro per danni alla salute per questi... 11.000 euro per danni alla salute, 11.000 sì, euro di danni, sì, alla salute, sì. E io ricordo a chi è in ascolto e ha avuto la pazienza, ma bisogna spiegare bene il caso, perché altrimenti poi si tende a equivocare. Qui ci sono due norme, io a tutti gli artigiani, i commercianti, gli imprenditori, ma anche le famiglie che hanno diritti e interessi legittimi da far valere nei confronti della pubblica amministrazione, nel caso in cui il vostro avvocato già non vi abbia messo in condizioni, se lamentate inerzie colpevoli che vi procurano danni della pubblica amministrazione, comunque la legge è dal 241 del 1990, quella che stabilisce le scadenze per le attività degli uffici pubblici, dando dei tempi medi con delle derogabilità che però vanno giustificate e quindi possono incardinare delle azioni nel caso in cui non vengano invece ottemperate. E poi a questa legge, che era 241, bisogna abbinare, per così dire, quanto prevede la legge 69 del 2009, questa quella più recente, che appunto ha introdotto la possibilità del risarcimento per danni in caso di inosservanza dei termini entro i quali la pubblica amministrazione deve provvedere alle vostre istanze, alle vostre richieste, graduando diversamente nel caso in cui si tratti poi naturalmente nell'accertamento giudiziale o amministrativo di inosservanza che derivi da comportamenti colposi oppure dolosi. Però questo caso, il caso di la possibilità di vedersi riconoscere anche il danno biologico, a me ha riempito di particolare soddisfazione. C'è anche, tra l'altro, un'altra bella sentenza che trovate oggi commentata anche sul Sole 24 Ore, una sentenza in questo caso che non è del Consiglio di Stato ma è della Cassazione, ed è relativo al fatto che il FIS è stato respinto una volta ogni tanto un ricorso all'Agenzia delle Entrate, e quindi il fisco paga per l'atto illegittimo del contribuente, e oltre alle spese legali vanno rimborsate anche quelle per il commercialista, perché non è che l'Agenzia delle Entrate si può permettere di violare il principio del neminen ledere, però questi casi così riempiono di soddisfazione. Naturalmente ci vuole molta costanza, esporsi alla possibilità anche di rimetterci dei soldi con gli avvocati, però insistendo, come vedete, si riesce a ottenere qualche cosa. Io, se l'avvocato Passero può fermarsi con noi anche per la telefonata, sarei contento. Volentieri. Così, ecco, perché abbiamo sicuramente anche così la possibilità poi di dare qualche parere, diciamo, al di là del singolo caso. Con Raffaello Vigliani, invece, che è il vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera e che più volte ne abbiamo parlato in questi mesi, è l'animatore numero uno di un manifesto a favore della piccola impresa, che in questa legislatura riesca a far fare dei passi in avanti agli incentivi, al blocco di semplificazioni, a tutto ciò che si oppone alla crescita di valore aggiunto, di redditività del fondamento del nostro tessuto economico, cioè la piccola impresa. Chiedo: che impressione fa questo caso, questo riconoscimento di danni biologico stabilito dal Consiglio di Stato, e a che punto siamo con il suo disegno di legge? Buongiorno Vignali. Buongiorno Giannino. Ma intanto io sono molto contento di questa sentenza, mi verrebbe da dire, quando l'ho letto ieri sul giornale, ho detto: era ora, perché non è possibile continuare ad andare avanti in uno Stato che pretende la correttezza dei cittadini e poi il rispetto dei tempi, ad esempio quando si devono pagare le tasse, e invece da parte sua si disinteressa completamente e agisce in modo irresponsabile. Mi viene anche da dire, vediamo entro quanto pagherà questo comune quanto dovuto, perché ci sono casi di sentenze, conosco ad esempio un caso di una sentenza del Consiglio di Stato che dice a un ministero paghi, nel caso era una revoca illegittima di un finanziamento, sono passati 2 anni e mezzo dalla sentenza del Consiglio di Stato e non è ancora successo niente, perché la burocrazia poi prosegue, non è che si ferma davanti alla sentenza del Consiglio di Stato. Quindi... Occhio avvocato Passaro, bisogna stare lì con i fucili spianati per farsi pagare, vabbè comunque... Sì, perché... Detto questo, questi sono fatti importanti, anche quello di questa mattina che citava prima, perché insomma bisogna che arriviamo a un livello di civiltà. Per quanto riguarda lo statuto, per fortuna ce l'abbiamo fatta, il 14 marzo prossimo, quindi tra 10 giorni, andrà in aula e quindi penso non ci siano problemi, verrà approvato. E che spero all'unanimità, perché noi non possiamo continuare a pensare che il benessere che abbiamo raggiunto lo manterremo se non ci impegniamo, se non ci assumiamo responsabilità. In questo molta responsabilità è dello Stato e della pubblica amministrazione. I tempi biblici sono incompatibili con la competizione globale, cioè se prendiamo, come dice sempre lei Giannino, ad esempio la Germania, uno dei fattori di competitività sono la certezza delle norme, un comportamento responsabile della burocrazia e la velocità. Io dico sempre che vorrei che ogni amministratore, ogni politico, ogni funzionario, quando gli arriva sul tavolo una pratica, pensasse che ogni giorno che la tiene ferma sta negando PIL al paese e occupazione a qualcuno, perché è una questione di responsabilità. Lei è un parlamentare, quindi ovviamente le chiedo un'opinione di componente della maggioranza, ma che contemporaneamente è distinto, insomma, per ruolo, funzioni, dal governo. Sentiremo più avanti, con ogni probabilità, dall'altra trasmissione, il ministro Brunetta, che è quello che si impegna di più su questo versante, no? Però molti dicono sì, le semplificazioni sono una materia in realtà dannata, perché per quanto si possa annunciare, mettere mani a drastiche diminuzioni delle norme, dei vincoli posti alle norme e così via, per farlo lo stesso procedimento attraverso cui lo si fa genera nuovi carichi, regolamenti, eccetera eccetera. È possibile che nell'esperienza della pubblica amministrazione una via maestra per l'abbattimento radicale delle norme e dei vincoli non ci sia, Vignali? Io sono anni che lavoro su queste cose, è una battaglia infinita. Io credo che bisogna però iniziare a introdurre delle sanzioni per chi non si comporta nel modo dovuto. Quindi nei tempi, la legge 241 è molto chiara, è una delle leggi più inapplicate che c'è in Italia, a 20 anni, ma e dove si dice che tutto deve essere fatto in 30 giorni, ma non succede proprio mai. Ma se non succede mai, cosa succede a chi non fa quello che deve fare secondo la legge, in questo caso al funzionario pubblico ma anche all'amministratore? Assolutamente nulla. Se invece si prende una responsabilità, qualcosa rischia. Ci sono casi di funzionari che hanno dato legittimamente dei permessi, poi indagati dalla magistratura, che spendono da avvocato più dello stipendio che prendono, dopodiché non ne danno più, no? Certo. Quindi io credo che noi dovremmo introdurre due cose, perché rispetto anche al caso di cui parliamo oggi, io vorrei sapere innanzitutto chi paga, perché io sono per una responsabilità personale, va bene l'ente comunale, ma alla fine sono sempre i cittadini. Quindi secondo me bisognerebbe introdurre la responsabilità civile per gli amministratori e per la pubblica amministrazione. Semmai dare anche però la tutela legale ai responsabili del procedimento, poi se arrivano in giudicato e si prova il dolo, paghino tutto loro. Certo, perché a quel punto diventa la responsabilità anche personale di chi ha in carico l'organizzazione del servizio. Iniziamo a sentire alcuni ascoltatori. Il caso di Piero, che ci chiama da Firenze. Prego, Piero. Sì, buongiorno e grazie. E niente, io volevo dire questo. Io praticamente, avendo un bambino con difficoltà, diciamo, di psicomotorie, ho fatto l'ho scritto in una scuola privata e praticamente è stato buttato fuori perché era un danno per gli altri. Allora dallo psicologo, praticamente ci è stato fatto una richiesta per il riconoscimento della legge 104. Abbiamo fatto la domanda a settembre, a novembre abbiamo fatto la visita, praticamente a tutt'oggi non abbiamo ricevuto niente dall'INPS, né negativo, né un coso negativo, né positivo. Ecco, questo avveniva a settembre, ottobre? A novembre ha fatto la visita, praticamente ancora ad oggi, a oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Piero, rivolgersi, 30 giorni di termine sono decorsi, quindi rivolgersi a un legale, questa è la mia risposta immediata, anche perché nel frattempo l'anno scolastico si è inoltrato, i danni sono sicuri, certificabili nei confronti di vostro figlio, quindi è sicuro che esiste la possibilità per intentare l'azione. Massimo ci chiama da Milano, prego Massimo. Sì, buongiorno Giannino, ringrazio lei, gli ascoltatori e l'editore. Una gentilezza, succede questo molto semplicemente, in un comune della provincia di Milano. Io faccio parte della commissione mensa, la commissione mensa è quell'organo che controlla, diciamo, ad indirizzo di controllo sulle mense scolastiche. In che comune, se ce lo può dire? San Donato Milanese, beh. Ecco, accade questo, che ovviamente la commissione mensa ha delle regole e degli indirizzi precisi secondo un capitolato che evidentemente è quello erogato dal comune per l'azienda che ha l'appalto dei servizi scolastici. Ho chiesto più volte al comune, per esercitare la mia funzione di membro della commissione mensa, il capitolato, per appunto avere un'aderenza di verifica su quello che poi andrò a vedere e a verificare appunto, e il comune più volte mi ha detto che non sono tenuto ad avere il capitolato. Come membro della commissione non è tenuto a conoscere il capitolato? Esatto. In maniera scritta più volte ho chiesto anche al dirigente, a chi è predisposto al contatto con i membri della commissione mensa, è passato molto tempo in cui non mi hanno dato nessuna risposta. La prima riunione che c'è stata ufficiale dei membri della commissione ho chiesto pubblicamente davanti a tutti e mi è stato detto che noi non siamo tenuti ad averlo perché evidentemente ci sono dei contenuti economici che non sono di attinenza. Io ho detto gentilmente di poterli cancellare. Naturalmente, Massimo, da quello che capisco al volo, qui si tratta di un caso completamente diverso da danni che possono venire a cittadini, imprese, eccetera, eccetera, dall'inerzia della pubblica amministrazione. Questo è, per così dire, un'interna corporis ed è una questione però di controllo amministrativo, economico-amministrativo. Non so dire quanto questo dipenda da una dinamica di questioni maggioranza-opposizione. Quello che mi pare il minimo è che, come componente di una commissione di controllo sulla gestione e l'offerta di un servizio, se non è in grado di ottenere la documentazione in base alla quale si stringono poi i contratti con cui vengono poi offerti i servizi, non è in grado di svolgere la sua funzione. Quindi anche in questo caso immagino che ci siano altri passi da compiere prima di quelli legali. Immagino che sia purtroppo una questione politica, però io sarei più contento come cittadino, oltre che come un conduttore pro tempore di una trasmissione radio in questo gruppo editoriale di Confindustria, dove ci sono imprenditori in ascolto, piccoli imprenditori, artigiani, eccetera, eccetera, di sapere se chi esercita il controllo è in grado almeno di avere le carte per poter esercitare il controllo. Se no, come la nebbia di Totò, che quando c'è la nebbia non si vede, e quindi se c'è la nebbia o meno non si vede, per così dire. Totò a parte, ora pubblicità, poi riprendiamo. Eccoci tornati in studio con il vostro conduttore indagato, come sapete, da qualche giorno, e purtuttavia mi possono indagare tutta la vita, ma non per questo posso farmi cambiare idea sul rispetto dei diritti del cittadino di fronte allo Stato, da parte dello Stato, nei confronti dello Stato. I diritti servono per consentire al cittadino di potersi tutelare dalle pratiche improprie, illegali messe in atto dallo Stato. Siamo partiti dal caso di una sentenza del Consiglio di Stato che riconosce il danno biologico per un costruttore che è stato documentato, avete sentito per bocca del suo avvocato, che derivava dalle inadempienze rispetto ai termini posti alla legge 241-1990 di ciò che la pubblica amministrazione deve dare come risposta ai cittadini. C'è anche una sentenza sulla materia del fisco che, sapete, mi sta molto a cuore, una sentenza in questo caso della Corte di Cassazione, una sentenza del 3 febbraio, nella quale ha perso l'Agenzia delle Entrate, ed era una vicenda direi paradigmatica, perché era un contribuente che aveva avuto notifica di 4 avvisi di accertamento per 4 annualità diverse, dopodiché quindi maggiori imposte pretese su autonoma e unilaterale definizione da parte dell'amministrazione tributaria, dopodiché naturalmente c'era l'immediata iscrizione a ruolo, veniva notificata la cartella di pagamento. Sapete che a quel punto decorre automaticamente il termine entro il quale lo Stato ti mette le mani in tasca nel patrimonio, lo Stato che naturalmente ti dice che tu sei evasore e naturalmente ti indaga, come ovvio. Ebbene, una volta ogni tanto capitano sentenze come quelle della Corte di Cassazione del 3 febbraio, nella quale a quel punto l'Agenzia delle Entrate viene respinta la sua tesi per cui sia sufficiente l'autotutela quando il ricorso è già presentato, e dice no, neanche per idea, anche per voi vale il Codice Civile 2043, quindi i vostri atti erano illegittimi e dovete pagare al contribuente, non solo ritirare tutto quello che avete intentato nella richiesta di imposte improprie che non doveva, ma dovete anche rimborsarlo, e dovete rimborsarlo anche nelle spese per il commercialista. Per conto mio bisognerebbe rimborsarlo a quel punto anche nel danno morale individuale. Lo dico da indagato, finché me lo faranno dire da indagato qua, lo dirò da indagato, non cambio idea di fronte al fatto di uno Stato che con i suoi comportamenti versatori si mette il diritto sotto i piedi e ti tratta da schiavo e da suddito, benché ci sia ogni tanto una Corte di Cassazione, un Consiglio di Stato che ci rimette in piedi di fronte al diritto e alla dignità che dobbiamo pretendere da noi stessi innanzitutto, per imporla anche allo Stato quando è ladro e bandito. Sentiamo qualche altra esperienza di ascoltatore, come Nicola che chiama da Milano, cosa ha da dirci contro lo Stato ladro e bandito. Sono indagato, ma lo ripeto. Prego Nicola. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Scusate per la voce, sono la voce bassa. Non si preoccupi, dica. Allora io volevo portare la nostra esperienza familiare praticamente. Noi abbiamo un'azienda agricola a conduzione familiare e nel 2002-2003 così abbiamo richiesto il permesso di costruire su un terreno di nostra proprietà e abbiamo fatto sia l'azienda agricola che il permesso di costruire uno stabile per un deposito, diciamo, un capannone, va, ecco, che ci doveva servire insieme. E avevate le vostre regolari licenze a fare a procedere come avete proceduto? Sì, ce l'ha dato. Allora, no, non entro troppo nei dettagli, vada al punto. Poi che cosa è che avete chiesto? Se non che è chiaro che una aspirazione quando fa le cose, noi siamo giovani, volevamo, la nostra finalità era quella di fare un agriturismo, di fare cose recettive, siamo proprio a Milano. E dopodiché? Appena la provincia di Milano, il comune di Sedriano precisamente, dopodiché a una... su ogni richiesta che facevamo ci sono arrivati i vari dinieghi, però con i loro tempi proprio. Io mi sono interessato a questa trasmissione oggi proprio per questo fatto qua, perché ritardi mostruosi. Nell'ordine di quanto? Anche un anno. Avete, sì, potuto fare, che... avete potuto fare quello che avevate intenzione di fare della vostra? No, non l'abbiamo fatto, le dico di più, noi questa azienda agricola l'abbiamo aperta e l'abbiamo portato subito avanti, abbiamo messo le piantagioni, però niente agriturismo, animali, tutto. Avete fatto ricorso? Nicola deve correre. Sì, l'abbiamo dovuto fare perché la provincia di Milano a un certo punto ci ha fatto un'ordinanza che noi quello che avevamo fatto non era più legittimo, ci indimava di fare ricorso al TAR per quello che avevamo fatto. Sì. Abbiamo fatto ricorso al TAR nel 2008 e i giudici hanno tenuto presente il fatto che loro avevano fatto tutto in ritardo, però è chiaro che tutelano loro e quindi ci hanno dato parere negativo. Però il 2009 poi, o il 2010, adesso mi ricordo le date precise, anche il comune di Sedriano ci ha fatto un'ordinanza, la stessa ordinanza per fare il ricorso al TAR, qui la stessa cosa, e nonostante questo il comune si sta ancora di più accanendo contro di noi, facendo indagini per abusivismi, è invivibile, tant'è che mio padre era ammalato e si sta aggravando proprio in una situazione pessima di salute, e stanno cercando di ucciderlo praticamente. E anche noi, il titolare dell'azienda, che è mio fratello, sta avendo delle conseguenze. Nicola, naturalmente, esposta così è una vicenda non solo di tempi lunghi, ma anche di qualcos'altro, perché se stanno facendo altre indagini, peraltro, non rientra nel caso in cui, di cui abbiamo parlato oggi, cioè della sentenza del Consiglio di Stato che ci è stata illustrata dall'avvocato Passero. Sentiamo ancora rapidamente Stefania da Firenze. Prego, Stefania. Sì, buongiorno. Senta, mio figlio ha avuto un incidente nel 2006. Noi prima dell'incidente avevamo comprato la nostra prima casa e l'abbiamo dovuta vendere entro 5 anni, perché non potevamo ristrutturarla, perché cioè lui era in coma e quindi eravamo, cioè, come dire, solo dietro al figlio. In più, forse pochi lo sanno, ma l'ASL ti passa poco più di un mese l'anno di riabilitazione, e quindi abbiamo dovuto spendere, cioè il primo anno e mezzo abbiamo speso 117.000 euro in più. Io ho smesso di lavorare e lavoravo con mio figlio, con mio marito. Mio marito ha un'attività e chiaramente non era lucido in seguirla. C'è stato l'aspetto esattoriale. Dove noi dovevamo rendere, avevamo dovuto la agevolazione della prima casa, dove fare la differenza, che sono circa, ora saranno, non so, 40-50.000 euro. Io ho tutta la documentazione, prima andavo a dei commercialisti, ma l'hanno detto, no signora, non si può fare niente. Io mi andai all'ufficio delle entrate con tutte le spese vive. E che ha detto l'ufficio delle entrate, Stefania? Perché non c'è niente da fare, ecco. Dovete pagare. Questa è una vergogna. In più, ho pensato, l'assicurazione, dato che danno mio figlio 100% invalido con l'accompagnamento continuo, ci riconoscerà questo danno. E invece? E mi hanno mandato una lettera, sì, ce l'ho firmata a casa, dove neanche un messo causale col congiunto, ecco, da parte della famiglia. Bene, anche il caso di Stefania mi pare di quelli un po' esemplificativi. Rapidissimamente ancora Luciano da Salerno, proprio rapido, prego Luciano. Sì, buongiorno, volevo illustrare la nostra disavventura burocratica. Praticamente il 1 ottobre abbiamo costituito la società per aprire un'agenzia viaggi e già lì sono iniziati i primi problemi, perché ci voleva un mese per registrare la società. Poi abbiamo fatto domanda per poter avere le visite, per poter avere le autorizzazioni per aprile, 2 mesi per avere la provincia che ispezionasse i locali, dopo che praticamente quotidianamente io e il mio socio ci recavamo in provincia per sollecitare questa visita. Solo dopo varie telefonate, giornate passate lì davanti, dopo 2 mesi abbiamo avuto la visita. Successivamente lo stesso iter è iniziato alla la regione Campania. Ne siete venuti a capo nel frattempo senza, sì, che ci fa passo passo? Fino il 30 gennaio. Quanto dopo tempo? Altre visite. Dopo quanto tempo per aprire? 4 mesi. C'è di peggio, sa Luciano, cioè, io capisco che 4 mesi siano sembrati lunghissimi, ma c'è molto molto molto molto molto di peggio. Allora io mi scuso con Pietro da Firenze, perché adesso abbiamo l'informazione stradale, poi ci ha raggiunto al telefono il ministro Renato Brunetta e subito dopo il minuto di informazione sulle strade con il ministro per le semplificazioni possibili e anche talvolta un po' più dure rispetto a quanto ci si crede a farla davvero. Eccoci tornati in studio, nel frattempo il ministro Brunetta, il collegamento è andato via, ma noi ci abbiamo ancora ascoltatori, sentiamo Pietro che ci chiama anche lui da Firenze, prego Pietro. Sì, buongiorno, io sono un avvocato e volevo sollevare una duplice questione. La prima è che nonostante in questo caso di cui stiamo parlando, oggi direi che proprio è stata fatta giustizia, di fatto però ho sentito il legale della parte che ha, diciamo, vinto il procedimento nei confronti della pubblica amministrazione, che ha detto che il risarcimento è stato riconosciuto in circa 11.000 euro. Ora, a seguito di 2 gradi di giudizio, io credo che questa parte, a meno che il giudice non abbia condannato l'amministrazione anche alle spese oltre a questa somma, credo che appunto sia comunque necessario vedere o rivedere da parte della magistratura la condanna alle spese, perché di questo importo molto probabilmente tutto o una buonissima parte viene girato direttamente al legale che ha seguito questo caso. Quindi di fatto, anche se sembrerebbe che giustizia sia fatta, di fatto il ricorrente non ha ottenuto non andrà a ottenere quel risarcimento. E questo succede sia nella giustizia amministrativa che nella giustizia civile regolarmente, perché di norma le spese vengono compensate. Allora, un secondo Pietro, noi abbiamo l'avvocato che ha seguito il caso, nel frattempo io devo informarvi che il ministro Brunetta non c'è più, è attaccato, io avevo una telefonata in diretta, il ministro mi fanno capire che si è un po' arrabbiato perché non l'ho mandato subito, dovevo finire la telefonata con gli ascoltatori che c'era, è il nostro dovere, peccato perché ieri ci sono state nuove semplificazioni al Consiglio dei Ministri e mi sembrava giusto spiegare come sia possibile fare un passo avanti con tanta voglia come ci mette il ministro e anche con tanta difficoltà che è quello posto all'ordinamento. Però la domanda del nostro ascoltatore, giriamola all'avvocato Passero che ha seguito il caso, è così, quindi gli 11.000 euro sono poi una specie di baffo, una beffa. Oltre al danno? Non è così. Nel senso che gli 11.000 euro sono relativi soltanto al danno biologico, poi c'è stato anche il risarcimento del danno di una cifra di circa 50.000 euro per il danno patrimoniale, c'è sono state la condanna alle spese, devo dire, per il Consiglio di Stato abbastanza, non dico rilevanti, ma comunque insomma può essere significative perché sono state di circa 10.000 euro e poi la condanna anche al pagamento di tutte le spese dei consulenti d'ufficio che sono stati impiegati per la consulenza. Quindi devo dire che da questo punto di vista in più il calcolo degli interessi, svalutazione monetaria, no, la sentenza sotto questo punto di vista, anche da questo punto di vista è stata abbastanza significativa, non mi ha riconosciuto una parte di danno, ma perché ha ritenuto che io non fossi stato in grado di dare delle prove, era molto difficile dare quelle prove che il giudice aveva chiesto. Ma il problema del risarcimento del danno forse sarebbe un po' diverso, sarebbe forse un aspetto che potrebbe essere anche molto interessante affrontare, più che altro devo dire che il collega ha ragione che normalmente i risarcimenti del danno non sono cospicui, ma perché noi non abbiamo per esempio la logica del danno da responsabilità civile, cioè come quello che succede negli Stati Uniti, voglio dire, no? Cioè quando praticamente io vado a risarcire non soltanto la persona direttamente e quindi faccio una valutazione del danno specifico, ma anche una valutazione di quella che è l'incidenza sulla collettività, esattamente. Che forse quello potrebbe essere una cosa estremamente interessante. Io penso che andrebbe introdotta anche questa responsabilità. Nel frattempo poi gli ascoltatori credono che io abbia fatto riferimento personale per fare la vittima, no signore, semplicemente lo faccio perché alcuni mi fanno notare che in qualità di sottoposto ai indagini perturbativa d'asta intercettato dovrei astenermi adesso da parlare di cose che riguardano la tutela dei diritti, l'intercettazione della giustizia. Io non la penso così, proprio perché penso che indagato implichi che non sia condannato ai vostri occhi, cari ascoltatori, o no, o c'è qualcuno che pensa di sì. Se c'è qualcuno che pensa di sì, riprendiamoci i sacri testi del diritto in mano, e altrimenti è molto facile eliminare qualcuno, lo si indaga e deve stare zitto. Può essere che poi, per carità, può essere che la valutazione di questa azienda editoriale sia questa, infatti basta vedere il rilievo che il Sole 24 Ore ha dato la notizia, unico quotidiano italiano, mi complimento con i miei colleghi, ma detto tutto questo, finché io sono qua faccio il mio mestiere. Così, sentiamo come la pensa Carlo da Torino. Buongiorno, sono Carlo, chiamo da Torino. Dica. Pronto? Ecco, noi la sentiamo Carlo, proceda, prego, in fretta. Ah, perfetto. Senta, allora io volevo portare a conoscenza di voi e di tutti gli altri questo. E io sono un italiano che ha una partita IVA francese iscritto a Chambéry, alla Camera di Commercio di Chambéry. Mia moglie invece lavora a Torino, ha un'attività. Allora, l'altra settimana... Quindi lei, per così dire, è in condizione di comparare l'efficienza delle risposte francese e italiane. Perfetto, ma anche dei costi. Allora, io due settimane fa mi sono messo in contatto via email con la Camera di Commercio di Chambéry, dove quando uno viene iscritto gli danno un referente. Gli ho detto, guardi, vorrei fare una modifica alla mia licenza, devo venire a Chambéry, io sono a Torino. Mi dice, no, guardi, compili questo modulo, mi mandi su un assegno di 15 euro e una fotografia. In capo a due settimane io avevo la licenza nuova, tesserino e via di seguito. Mia moglie doveva a una profumeria, quindi doveva, cioè, il nome profumeria, il nome della persona, eliminare il nome profumeria. Mi sono recato alla Camera di Commercio, mi dice: ah, no, no, lei non lo può mica fare, deve andare a un commercialista. Dico: scusi, ma non si può, non c'è una finestra dove via web uno può intervenire. Dice: guardi, lei dovrebbe essere un mago della web, però deve comprare una smart card da 80 euro. Allora mi sono recato da due commercialisti, uno mi ha chiesto 30 euro di documentazione più 70 euro di lavoro del commercialista, un altro mi ha chiesto 150 euro. Va questa bene. È la comparazione. Naturalmente però il problema non è tanto il commercialista quanto lo Stato che la obbliga a fare questo, per essere chiari. Nella comparazione la Francia mi pare che ci batta e ci stracci. Alberto da Varese, rapidissimamente, prego Alberto. Sì, buongiorno, veloce. Io la chiamo ricordo che come commercialista ultimamente ricevo molte comunicazioni di errata dichiarazione da parte dei clienti. Una volta fissato l'appuntamento, ed è già difficile trovare un appuntamento a breve, mi reco agli sportelli, gli faccio vedere che non c'è nessun errore. Questi mi dicono: sì, sì, abbiamo tagliato noi, correggono e tutto, arrivederci, buonasera. Io ho al mio cliente ha un costo. Oltre il fatto che non ci sia errore in quel momento, ma loro, nel momento in cui io commetto l'errore, mi fanno pagare sanzioni, certo, interesse e costo di comunicazione. Credo che sia giusto nel momento in cui l'errore è lo fanno loro la stessa cosa. Ma questo è il principio dello Stato ladro e bandito, quello di dare a sé una regola che è diversa da quella che pretende da noi, perché ci tratta da sudditi, da schiavi. E io, mi dispiace, potete indagarmi tutta la vita, i miei colleghi tra un po' diranno, appunto, visto che sul Sole hanno dato tutto questo rilievo, che si vergognano di me, ma io finché ho voce dirò che viene prima il diritto del cittadino, poi dopo quello dello Stato, prima il mio, poi quello di chi in pubblico è pagato coi miei soldi per osservare la legge prima e meglio di me, non per farsene una negli interessi dell'amministrazione pubblica, che è molto meno restrittiva e rigorosa di quella che chiedono di rispettare a me. Fine della trasmissione di oggi, un po' combattiva, ma sì, ogni tanto bisogna farlo, lo sapete. Grazie a Raffaello Vignali, all'avvocato Passero, appuntamento a lunedì.